Se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 mattino" di Alessandro Milan. What we gotta do right here is go back. Back in the time. Signori, ci risiamo. Non so se siete informati, se avete seguito Radio 24, ma quella che sentite in sottofondo è Ariana Grande, pop star, molto amata dai teenager, dai ragazzi. Ieri concerto di Ariana Grande a Manchester, in Gran Bretagna. Una bomba, un attentato terroristico, così al momento è stato definito. E ci sono almeno 19 morti, 60 feriti. Le notizie al momento non sono delle più dettagliate, anche se la BBC, la CNN raccontano si indaga per terrorismo. La Premier May ha parlato di un orrendo attacco terroristico. Secondo la CNN sarebbe stato addirittura un kamikaze, cioè un attentatore suicida. E ci siamo. Ovviamente anche Ariana Grande dice: "Ne sono distrutta", così lo ha scritto su Twitter. Era finito il concerto sui giornali, devo dire, sui giornali italiani non c'è granché, perché è successo ieri in tarda serata. Ma iniziamo la giornata così, raccontando dell'ennesimo attentato, purtroppo nelle grandi città anche europee. Ultimamente, negli ultimi tempi, di attentati terroristici se ne sono visti. Siamo qui, sono le 6:32 minuti, ovviamente vi daremo conto di questa notizia durante qui la puntata di 24 mattino, durante tutti gli aggiornamenti di Radio 24. Quello che si sa è proprio questo: attentato a Manchester al concerto di Ariana Grande, 19 morti confermati, la polizia che parla di attacco terroristico, ma ci sono una sessantina di feriti, alcuni anche in gravi condizioni ovviamente, altri invece feriti in maniera lieve. Come dire, vabbè, eccoci qua. Non si può dire molto di più, nel senso che non si sa molto di più. È chiaro che quando c'è stata un'esplosione, si è sentita anche in sottofondo con le urla delle persone, si presume che l'esplosione sia stata causata da un attentatore suicida o comunque da un pacco lasciato lì da una bomba. Queste almeno sono le piste su cui indaga la polizia di Manchester. Ovviamente qua magari se accendiamo poi la BBC, se riusciamo, chiedo a Lorenzo Nespoli, in redazione entra pure, che magari accendiamo la BBC, vediamo se ci sono degli aggiornamenti che vengono dati in diretta con Peter Bescapè in regia alle 6:33 minuti. Signori, dai, anche oggi voglio dare le vostre temperature. Moncalieri, signori, ci sono 16 gradi, questo ci dice Beppe. A Torino anche 16 gradi. Giustamente, siamo a Moncalieri, sono 16, non è che... Casale Marittimo, provincia di Pisa, sereno 14 gradi, ci dice Marco. Mentre a Metaponto 15 gradi, Andrea da Taranto. Perth risponde, Chiara, 17 gradi e nuvoloso. Un grande abbraccio come sempre all'Australia. 17 gradi anche a Mantova, ragazzi, è il giorno dei 17 gradi. A Rimini 18 gradi e mezzo e sole. A Modena 18 gradi. E così, in provincia, a Cisternino, Brindisi, 15 gradi, Cosimo, anzi a Contrada Fasola, giusto, Fasola, l'accento sulla O, caro Cosimo. Intanto a Varese ci sono 16 gradi, a Genova 15 gradi, ci dice Paola. Eccoci qua, le 6:34 minuti, dai, fammi sentire la BBC un attimo. In breaking news da tempo. No, the last song's still playing, it's just about to be over and we'll be out. And so from I texted at 10:28. Ci sono ovviamente le immagini che non potete vedere di ambulanze, si parla di 19 morti, ci sono la polizia che indaga su ipotesi di attentato terroristico. Oh, questo è il clima, non lo so se i nostri ospiti, che saluto, l'onorevole Maurizio Bianconi, direzione Italia, buongiorno, ciao Maurizio, come va? Buongiorno, bene, bene, grazie. Sapevi bene di questa notizia? Con queste notizie un po'... Sì. Sì, ma ragazzi, ma anche un concerto, ma cioè dire, non è che c'è un luogo deputato ad altri per un attentato, per carità, ma un concerto, ma voglio dire, ragazzini, fatto, ragazzini, sì, sì, sì. Anche quando hanno fatto a Parigi, sì. Locale, sì, è come no, è come no, è come no. Sono i posti di Vitovo, gli stadi, i concerti. Sì, è terribile, è terribile. Purtroppo bisogna conviverci. È terribile, l'abbiamo detto tante volte, bisogna conviverci con questo nuovo mondo che ci vede ogni tanto anche vittime di questi pazzi attentatori. Ora non si sa ovviamente, si indaga per un attentato, non si sa assolutamente la matrice, c'è da dire che statisticamente negli ultimi tempi la matrice l'abbiamo vista, in questo caso ovviamente non si sa nulla e nulla si può dire. Va bene, comunque cerchiamo anche di parlare di altro, di quello che succede insieme a Maurizio Bianconi, a Carla Rocchi, presidente nazionale dell'EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. Buongiorno Carla. Buongiorno cari, buongiorno. Oggi tra l'altro apriamo il Parlamento, forza, perché... Allora ragazzi, se uno esce per prendere un caffè e gli state sopra così, io vi voglio bene. Io ho detto, a parte che oggi tutti i giornali italiani, a parte la vicenda di Manchester, che non è l'apertura per una questione pratica, sono andati in stampa, alcuni fanno quella che in gergo si chiama la ribattuta, ma non c'è stato molto tempo per dare tante notizie, quindi le notizie di apertura sono ovviamente altre. Quasi tutti sono la crisi alla RAI. Io mi chiedo, l'uomo medio, cioè l'uomo che ora si alza, magari apprenderà anche con apprensione, preoccupazione, sdegno, quello che è successo a Manchester, e va a lavorare, quanto sia interessato al destino dei vertici della RAI, in particolare del direttore generale Campo Dall'Orto. Non so, Maurizio Bianconi, credi che... No, io penso assolutamente niente. Niente, niente. Però... Anche perché poi oggi l'offerta televisiva è talmente vasta che gli interessi della RAI o quel che succede alla RAI... Forse può interessare perché si dice la RAI comunque è politica, no? La RAI è politica, sì, perché Renzi si è arrabbiato perché fanno report e perché la Bianca Berlinguer aveva troppo spazio, dicevo stamattina, da qualche parte. Ma e quindi la questione è tutta politica, ecco. Naturalmente tutti vogliono l'informazione su misura. Sempre su Renzi si va. No, però in realtà io oggi sono partito. È lui che determina, non è che certo. Io. Sono partito, ho detto ecco, oggi rompiamo un'amicizia. Oggi rompiamo un'amicizia tra Maurizio Bianconi e Carla Rocchi. No, non rompiamo un'amicizia. No, il problema è che oggi Carla Rocchi, tra l'altro, ha rilasciato un'intervista sul Corriere della Sera. Bella intervista, lo sapevi Rocchi? Carla, lo sapevi che ti hanno intervistato? Mica sono inconsapevole. Lo sapevi, ti hanno intervistato. Cioè... A sua insaputa, no? Io sono sempre a mia saputa. Sempre a sua saputa. Indovina, la presidente dell'Ente Nazionale di Protezione Animali, caro Maurizio, a cosa aderisce? Al partito degli animali. Al partito, partito degli animali. No, perché, allora, se, se è così, l'hanno riportato. No, male. Io non aderisco a niente. No, aderire, no. Di giudizi, quello sì. Giudizi positivi. Certo che giudizi positivi, che oh. Giudizi negativi. No, certo, spiegaci un po' perché giudizi positivi. È molto semplice, siccome di questa cosa si parla tanto, se fosse insignificante non se ne parlerebbe. Primo, seconda cosa, se molti si sono irritati, specialmente i partiti più grossi, vuol dire che si sta coprendo uno spazio che era scoperto. Terzo, se viene messa in campo una forza che si interessa di animali, vuol dire che questo che per anni, ormai sono più di 20 anni, di animali non si interessa a nessuno in Parlamento e al governo, non solo, anzi. Ci si è interessati di questo soltanto in negativo. Mi verrebbe a rispondere come Pennacchi. E degli operai, occupiamoci degli operai. Ma degli operai si occupano i partiti tradizionali, che se ne occupano tanto, così carini, di sinistra, di destra. Di ma io c'è questa cosa che non capisco, ma perché degli animali si occupano degli animali? Allora dobbiamo fare il partito dei veterinari, ma per ma i veterinari. Chi vuole faccia, ma chi vuole faccia. Io dico questo, chi vuole faccia. Perché no? Perché, perché no? Ma no? Mica le persone sono obbligate ad aderire. Chi si vuole occupare certo, di temi a favore, ci mancherebbe. Si occupi di quello. Sì, ma mi sembra una, un'operazione di straordinario marketing. Sentite Berlusconi quanti... Attenzione, Bianconi, attenzione. Senti quanti ne vuol portare in Parlamento col Partito degli Animali. Se fosse così, non sarà purtroppo così, perché i sondaggi sono una cosa, la realtà poi è un'altra... Ma voi avreste 160 e rotti parlamentari e 62-63 senatori. Caro Bianconi, 160 secondo i sondaggi e 62 senatori, praticamente al governo quasi, il partito. Finale, quanti? 5 Stelle. Vabbè, no, è Chiappabischi, mica... Cos'è? Cioè, Berlusconi avete chiappabischeri, cioè ogni tanto ne scorre una, ha capito che i vecchi vogliono il dentiere e fa partito delle dentiere, poi fa partito degli animali, in realtà fa operazioni che gli convengono per i suoi fini elettorali, tanto canto fa quello di mestiere, chiappabischeri, quindi la questo è uno degli elementi. Ha capito, io sono un amante degli animali e non escludo che ci debba essere un partito degli animali come c'è un partito verde per la natura, eccetera, eccetera. Sono più dell'opinione che in ogni partito, naturalmente sempre se ci fosse il partito ormai non c'è più niente, ci fossero dei programmi dedicati anche alle bestie, alla natura, agli uomini. Quindi lo dice un ex bischero a questo punto, possiamo... No, a me non mai chiappato. Non mai chiappato. Mai, non mai chiappato. Io l'ho sempre ritenuto uno che aveva le facoltà di riunire il centrodestra e di rendere possibile un'alternativa. Ma l'ho sempre misurato e pesato bene, come ho sempre detto. Non ha mai chiappato. Non ha mai chiappato. Capito, però... L'unica cosa che mi ha chiappato di Berlusconi, devo dirlo, perché sarei uno scemo se non lo dicessi, la grande cortesia personale. È un affabulatore vero, è un conquistatore di persone, chiunque ci parla ne esce favorevolmente impressionato nella sua disponibilità. Si figuri che una volta mi disse: se hai un po' di tempo puoi venire perché io ti vorrei parlare. Cioè, questo non è che un capo e un presidente dice così a un deputato. Voleva. Voleva. E che voleva Rocchi? Parlo con quello e con quell'altro, lo dica lei. Ho capito, ma me l'ha detto te, me l'hai detto. Voleva cose non possibili, comunque. Voleva cose non possibili. Non fattibili, quindi. Attenzione. Ma però... Vabbè, però ho capito. Viene a lusso, quando vai a casa. Sì. Non è che l'aspetti, lui viene a lusso, da peluso. È una persona veramente... Però, Carla, hai capito? Però c'è tutto un però, è un'operazione di marketing, dai. Questa. Ma che c'entra? Scusate, io Berlusconi non l'ho mai incontrato in vita mia, anche se in Parlamento. Ed è un a modo. Ma è un altro discorso. Io chiedo a voi, vi siete mai occupati tanto del partito dei pensionati? Vi siete mai occupati tanto di altri? Ma perché, ecco, perché ci vuole un partito dei pensionati per occuparsi dei pensionati? Il partito... La ragione è molto semplice, perché quando esce fuori un partito tematico vuol dire che di quel tema non si occupa mai nessuno. Io ricordo che quando sono state fatte le leggi che difendono gli animali, c'era in Parlamento un partito che si occupava di questo, anche se non esclusivamente, sì. I Verdi. Io ne facevo parte e le leggi sono state fatte quando c'erano i Verdi in Parlamento, perché se ne occupavano. Nel momento in cui i partiti si sono occupati di ben altro, i famosi benaltristi, le questioni degli animali non solo sono sempre venute per ultime, ma tutte le volte che se ne parlava c'era sempre qualcos'altro di più importante da fare. Ma poi ne dico anche un'altra. Primo, nessuno è obbligato a iscriversi a questo partito. Io non sono iscritta, non sono aderente, non sono nulla, do un giudizio. Cosa, ma lo voti? Ma io, guardate, io sto pensando, da tempo stavo pensando di non votare più niente. L'ultima volta ho votato a Roma. Se questo partito c'è, lo voterò come persona. Certo. Non è che porto truppe cammellate. Ma no, vabbè, ma che c'entra? Un voto al partito degli animali. Il punto è questo, ma questa sorta di lieve snobismo, no? Gli animali no. Ma se a me questa cosa interessa, se interessa... Ma uno può votare chi vuole, ma ci mancherebbe. Ci mancherebbe pure, ma io perché devo votare partiti che se ne sono... Questa è una bella osservazione, Bianconi. Perché dovrebbe votare Direzione Italia, Carla Rocchi? No, ma lei fa bene a non votare. Fa bene a votare forse Bianconi, non è disputato. Ho capito, Bianconi, ma tu non puoi dire a una lettrice non devi votarmi, devi fare come Berlusconi, dire votami. Io sono assolutamente... ognuno fa quello che vuole, il suo voto fa quello che vuole, però... Il problema è, mi sembra un altro, in Italia ciclicamente appaiono i partiti tematici, c'era il partito dei cacciatori, è stato in Toscana fortissimo, in Emilia fortissimo, ancora, in Umbria, nelle Marche. È trattato nei partiti più grossi, ancora c'è? Sto finendo. E dopodiché questi partiti tematici, una volta che hanno raggiunto una potenzialità contrattuale, che fanno? Spendono la loro fiche mettendosi, infrattandosi nei partiti più importanti. Cioè diventa un sistema per inoltrare all'interno iniettare all'interno delle coalizioni. Ma è chiaro. Persone che poi continuano a fare la loro carriera. Ma in questa è l'operazione di marketing di Berlusconi. Cioè nel caso di specie, Berlusconi sa che non ha più un disegno politico, diciamo così, convincente contro qualcheduno, perché tira chiaramente all'alleanza con Renzi. E quindi non è più il centrodestra che ha venduto per molto. Prima diceva ci deve essere uno che vince e uno che perde, ora invece che vince tutti mi ha fatto proporzionale. Quindi ha cambiato tutto e cerca gli spazi di insoddisfazione, qui la vecchia ragione, per cercare di fare consenso. Secondo me lui prende i voti perché capisce che molti sono sensibili all'argomento, ma li utilizza ai fini di portare acqua al suo mulino. È quello che volevo dire io vedo questo. In casa mia arrivo quarto perché prima c'è la moglie, poi ci sono i tre cani e poi ci sono io che mi hanno anche cacciato dal letto, si dormono loro a letto con la moglie, no io. Questa è la situazione, casa Bianconi. Aspetta, senti la BBC, perché qua stanno testimonianze ovviamente. Questa è una donna che sta raccontando proprio il testimone oculare, ripeto, perché siamo partiti da qui, da quello che è successo ieri sera a Manchester al concerto di Ariana Grande. Un'esplosione, si indaga per terrorismo, nel senso che si ipotizza un attentatore suicida. Si parla di 19 morti accertati, ma almeno una sessantina di feriti, da cui alcuni in gravi condizioni. Questa è la BBC e c'è una donna e una ragazza che stanno testimoni oculari raccontando quello che è successo. Dobbiamo andare un attimo al traffico e poi rientriamo. Grazie Milan, continua pure, non fermarti mai, continua a gufare, grazie, stai andando alla grande, non ti fermare. Come diceva mia nonna, vusa più se la vacca le sua. Il 20% col partito degli animalisti, pensa un po' se avesse fondato il partito della gnocca. Berlusconi, manco li cani te voteranno più. Il punto è capire se c'è un pubblico ministero o un capitano dei carabinieri che hanno fabbricato prove false contro un rappresentante delle istituzioni. Questo è Renzi, Oh, devo dire, siamo con Maurizio Bianconi, Direzione Italia, siamo con Carla Rocchi, Presidente Nazionale dell'ENPA, che ci sta spiegando perché vede con occhio positivo la nascita di un partito degli animali, anche se, hai sentito Carla, manco i cani. Io dico una cosa, a questo punto dal partito degli animali, io perlomeno non so cosa mi potrò aspettare, non ma certo so. Non mi posso aspettare che facciano. La famosa eradicazione dei lupi, l'eradicazione dei cinghiali, delle nutri, delle cose. La gente si è scocciata. Ecco, tu hai cominciato la trasmissione oggi dicendo a chi importa della RAI? Niente, a nessuno. Niente. Non a Bianconi, non a me. Se alle persone interessa almeno. Beh, Bianconi magari si deve piazzare 3-4 persone alla RAI, magari deve piazzare 3-4 persone. Ma questo che dice? Che coglione è questo? Va bene, subito quando il politico viene toccato sul vivo, subito. No, ma si figuri, la vai. Io sono stato bandito dalla televisione, lo vedi che non mi vedi più da nessuna parte. E come mai? C'è perché l'editto bianconiano. L'editto bianconiano. Infatti, non ci chiamano più nessuno, perché è chiaro che il patto è di chiamare solo gente o gradito che porta voce. No, però dice Carla Rocchi, dice di certo non mi aspetto dal partito degli animalisti che facciano cose contro gli animali. No, ma sarebbe una contraddizione. No? Ma per me è legittimo, soltanto che è così vistosamente strumentale. Esatto, cioè non vi sentite usati, questo è... Chi ritiene che sia strumentale? Non si scrive, non lo vota. Ho capito, ma insomma, vabbè. Io mi sentirei un po' usato nelle... Sono portate sugli scudi, ma voi vi rendete conto? Dai partiti tradizionali le persone sono state mai avvantaggiate in qualcosa che li riguardasse? Abbiamo passato Abbiamo passato un anno a parlare di cose che... No, però questo mi interessa, attenzione, perché qua abbiamo colui che porta avanti l'idea che il Nazareno non è mai un patto, che non è mai morto. Questo è importante, perché se Renzi e Berlusconi si mettono d'accordo per votare a settembre, fine settembre, assolutamente critica con entrambi, perché di Renzi manco dico, perché manca solo che faccia il proclama delle radicazioni degli amministratori di condominio. Di Berlusconi io non dimentico che ha candidato Berlato, un cacciatore, capito che voglio dire, un cacciatore. Però è lui che fa, è lui che ha lanciato il partito. Però aspetta, ragazzi, però non vi capisco. Ma perché siete così accaniti? Noi stavamo parlando di questo, cioè cosa vuol dire Bianconi non faranno mai l'accordo? Come dici sempre che l'accordo c'è adesso che lo dicono tutti? Eppure Milan, lei è un giornalista attento, si sveglia presto la mattina, no? Sì. Ma cioè, loro sono d'accordo da sempre, perché sono portatori di interessi convergenti, questo sono anni che io lo dico. Ma quello che non è vero è che voteranno il 24 di settembre. Non è affatto vero. Cercano di concitare il panorama per rendere plausibile l'alleanza. Sono dei raffinati. Su questo sono dei raffinati. Come non c'è niente da temere dalla prossima finanziaria, lo scriva per favore. Non c'è niente da temere. Perché la Merkel ha interesse a mantenere su Renzi, quindi gli aprirà tutte le porte possibili e immaginabili. Quindi anche quello è un timore per far dire poi che Renzi è stato bravo e che Berlusconi ha avuto ragione a dargli una mano. Quindi per capire, si va a votare a fine legislatura, patto... Andrà bene, se va bene si vota a febbraio, se va meno bene, come ha detto già Renzi durante il suo incontro-scontro con gli pseudo candidati contro, si vota a maggio. Cioè, più tardi si vota e meglio è, perché Renzi quanto è bugiardo e quanto danno gli porta la Boschi, che non querela De Bortoli sputtanandosi in maniera definitiva. Questo è il problema. Tutte e due devono fare dimenticare cose, e quindi hanno bisogno di tempo e di diventare gli unici plausibili per conservare le cose come stanno, perché i 5 Stelle sono temibili. Ecco, è un gioco vecchio come il mondo. Capito? Giustamente dice quanto sono credibili, viva gli animali, dice Carla Rocchi. A questo punto è così. Va bene, dai, io mi devo fermare qui ringraziando Maurizio Bianconi, Direzione Italia, e Carla Rocchi, presidente nazionale dell'ENPA. Ora vi lascio il giornale radio, poi la rassegna stampa, ovviamente tutti gli aggiornamenti, soprattutto adesso nel giornale radio, di quello che è successo ieri sera a Manchester, cioè questo attentato, perché così si indaga per attentato, al concerto di Ariana Grande, un'esplosione, 19 morti e una sessantina però di feriti, alcuni in gravi condizioni. A tra poco. Il segnale orario vi è offerto da... Axerta, indaga, documenta, accerta. www.axerta.it. Anche stamattina andiamo a leggere i giornali di Milano, anche quelli di Roma, di Napoli. E me ci mettiamo pure quella della Sicilia, perché queste cose fanno schifo quella della Sicilia. 24 mattino. Signori, sono le 7:19 minuti e siamo qui a leggere i giornali. Vi ricordo che siamo anche in diretta video sul nostro canale di Radio24.it, sulla pagina Facebook di Radio 24, e dunque potete anche vedermi. Gran bello spettacolo. Allora, questo è lo spazio dedicato alla rassegna stampa e dunque dedicato alla lettura dei giornali. Giornali che non parlano moltissimo, quasi per nulla, per la verità, di quello che è successo. La notizia più importante che avete sentito da questa mattina, vale a dire l'attentato che c'è stato al concerto di Manchester di Ariana Grande ieri. Perché? Perché i giornali sono andati in stampa prima, alcuni hanno la cosiddetta ribattuta, le edizioni che ho io sono invece quelle della prima stampa. E comunque andiamo a vedere di che cosa si occupano i quotidiani. In questo martedì 23 maggio le aperture, come detto appunto, non troverete, a parte Repubblica o la ribattuta, non troverete le aperture sull'attentato al concerto di Ariana Grande. Ripeto, 19 i morti accertati, una sessantina i feriti e si ipotizza l'attentatore suicida. Sicuramente ci si muove nell'ottica di un attentato terroristico, questo ha detto la polizia britannica. Le aperture invece, il Sole 24 Ore, web tax, primo sì in manovra, l'addio agli studi di settore. Ecco qui Repubblica che apre: Manchester, strage al concerto, bomba all'arena dopo lo show di Ariana Grande, subito scattata l'emergenza terrorismo. La RAI poi è l'apertura per molti quotidiani. Corriere della Sera, campo dall'orto, spinto a lasciare il CDA RAI, boccia il piano sull'informazione. Per la Stampa, RAI, braccio di ferro sul direttore generale. Per il Messaggero, la crisi della RAI, sfiduciato l'amministratore delegato. Per il Giornale, RAI decapitata. Il Manifesto, cavallo pazzo, il cavallo simbolo della RAI. Io mi chiedo obiettivamente all'uomo e alla donna media, quelli che oggi si svegliano, quelli che tanti ci ascoltano, che cosa può interessare dei destini dei vertici della RAI. Comunque è la notizia per molti quotidiani di apertura. Il Fatto Quotidiano invece torna sulla questione Banca Etruria eccetera. Boschi non querela De Bortoli, è l'ennesima bugia. Il libro è in testa alle classifiche, ma di azioni legali nessuna traccia. Queste alcune delle aperture. Come detto, l'unico articolo che io ho trovato sull'attentato di Manchester lo trovate su Repubblica a pagina 16. Ma ripeto, domani ovviamente avremo tutti i dettagli. Enrico Franceschini racconta la forte esplosione che scuote la Manchester Arena, il più grande palazzetto dello sport d'Europa, alle 10:45 di sera. Il concerto della cantante pop americana Ariana Grande è appena terminato. Il pubblico comincia a correre in tutte le direzioni alla ricerca dell'uscita più vicina. Ci sono morti e feriti, si parla di almeno 20 vittime. È il primo comunicato della polizia della città che invita la popolazione a star lontano dalla zona dell'incidente. Lì sopraggiungono decine di ambulanze, agenti e mezzi di soccorso. Si ordina la chiusura per precauzione della vicina Victoria Station, una delle stazioni ferroviarie della città. La pista su cui si indaga, la bomba. Nelle prime concitate reazioni non si capisce, qualcuno cita perfino la caduta di alcuni palloncini nei pressi del palcoscenico, ma poi ovviamente si sa che la vicenda è davvero di altro tipo. Ripeto, su questo vi chiederei come al solito di stare sintonizzati qui su Radio 24, vi daremo tutti i dettagli anche qui nel corso della nostra trasmissione, nel corso della mia trasmissione, nel corso della rassegna stampa, poi più avanti e ovviamente nel corso dei giornali radio. Andiamo a capire quella che è la notizia di apertura invece per molti quotidiani, a mio modo di vedere, scema, io sarei un direttore pessimo, si sa, abbastanza inspiegabile, nel senso per l'interesse popolare, ma insomma certamente in Rai c'è qualcosa che non va. Il CDA della Rai sfiducia Campo Dall'Orto, cioè il direttore generale. Come racconta il Corriere della Sera, pagina 2, era nell'aria che la rottura fosse inevitabile, si era capito già dal consiglio d'amministrazione segreto della scorsa settimana. Alla resa dei conti si è arrivato ieri con la bocciatura del piano nell'informazione presentato dal direttore generale della Rai, Antonio Campo Dall'Orto. Contraria alla maggioranza dei consiglieri, Siddi, Borioni, Mazzuca, Diaconale, Messa, a pesare di più è stato il no della presidente Monica Maggioni. Due astenuti, Freccero e Fortis, l'unico a votare a favore è stato renziano Guelfo Guelfi. E tutti i giornali raccontano cosa succederà ora. Intanto il retroscena, pagina 3 del Corriere della Sera, Fabrizio Caccia racconta di uno scontro molto duro tra Campo Dall'Orto e Monica Maggioni, presidente della RAI. Mai vista Monica Maggioni così furibonda. Sono poco passate le 5 del pomeriggio, il CDA della RAI è in corso e il piano news è già stato bocciato quando arrivano le prime agenzie. Maggioni legge ad alta voce, sbuffa platealmente verso il direttore generale Antonio Campo Dall'Orto dicendo «Adesso vai di là, interrompiamo il consiglio e smentisci». E cosa diceva in questi dispacci di agenzia? Il direttore generale della RAI, Campo Dall'Orto, ha dovuto insistere per andare al voto sul piano news di fronte all'orientamento prevalente dei consiglieri di rinviare nuovamente la votazione. Eccola qui, la lite con Monica, poi il direttore generale. Ora cosa succederà? Andrà dal ministro Padoan domani con la situazione, non ci sono le condizioni per poter continuare. Ma anche qui il Messaggero in realtà anche dice prepara le valigie, ho avuto tutti contro. Sulla Stampa invece il retroscena pagina 3 è ho tenuto la schiena dritta, si avvicinano le elezioni ma non mi dimetterei mai. Domani incontro il ministro Padoan e decido. Mi hanno voltato le spalle, siamo ostaggio della politica. La RAI ostaggio della politica. No, questa proprio non si è mai sentita. La RAI ostaggio della politica. Questo il direttore generale della RAI arriva a questa considerazione. Tra l'altro, sempre nel retroscena, Goffredo De Marchis su Repubblica racconta dell'uomo scelto da Renzi e poi abbandonato da Renzi. Colui che sapeva di avere le ore contate. Goffredo De Marchis racconta anche con qualche gustoso retroscena. Per esempio, con i suoi fedelissimi, nel gruppo WhatsApp, Antonio Campo Dall'Orto chiacchierava di progetti e strategie e aveva dei nomignoli, e ha dei nomignoli, questo almeno giurale secondo Repubblica, con cui individua le persone di questa chat di WhatsApp. Antonello Giacomelli, sottosegretario alle comunicazioni, nella chat WhatsApp è l'uomo di peso, perché ha qualche chilo in più, e è anche un'avversione mai nascosta per il direttore generale. Michele Anzaldi, portavoce di Renzi, è definito schettino. Beh, certo, non uno di quei soprannomi simpatici da ottenere. Matteo Renzi, Diego, come Diego Armando Maradona, anche se proprio il problema nasce con Renzi. Campo Dall'Orto messo lì da Renzi, renziano, con lui si è visto riservatamente tutte le settimane per un anno e poi fa sapere Repubblica in realtà da settimane non si sentono più neanche al telefono. Amori che finiscono. Nelle pieghe di questi sbagli si è insinuata quello che gli amici chiamano senza giri di parole la fronda della presidente Rai Monica Maggioni. Ora io ho dedicato 4-5 minuti a questa situazione, ditemi voi quanto vi interessa di queste, quanto incide sulle vostre vite. è tutta questione di gestione politica, ci sono le elezioni, certo la RAI, un tempo si diceva l'azienda culturale primaria del paese, questo è però l'apertura per molti quotidiani. Vi dico invece queste due notizie, forse queste interessanti, visto che incidono sulla vita quotidiana di tutti voi. Pier Francesco Borgia racconta sul Giornale a pagina 8 all'ATAC è record di assenze. Se magari trovate qualche convoglio che non va oggi all'ATAC di Roma, sappiate che all'ATAC di Roma c'è un'assenza al lavoro di media dell'11,96%. Per dire, il personale operativo all'ATM di Milano, quindi azienda trasporti municipalizzati, la stessa situazione, una grande città, è la metà, il 5,73% di Roma. E allora, dipendenti dell'ATAC, come la mettiamo? Perché non lavorate in media il doppio rispetto ai dipendenti dell'azienda trasporti municipali di Milano? All'ATAC record di assenze, boom di dipendenti malati. Ogni giorno l'11,96%, diciamo il 12% del personale delle aziende dei trasporti romana resta a casa. Il doppio rispetto ai colleghi milanesi, questo lo trovate nell'articolo di Pier Francesco Borgia a pagina 8 del Giornale. Ma siamo all'articolo che mi fa pensare della giornata, l'articolo da Mani sul Volante, è questo: Luigi Ferrarella, pagina 21 del Corriere della Sera. L'appalto del tribunale per le aste finisce a una società in un paradiso fiscale. È l'appalto del Tribunale per la Pubblicità 2013-2014 delle aste giudiziarie, assegnato a non si sa chi, dietro due scatole societarie che finiscono nel paradiso fiscale del Delaware. Punteggiato dalla presenza di zio e nipote sui versanti di chi scriveva il bando e di chi lo vinceva. Bocciato dall'autorità anticorruzione di Cantone per errori di calcolo nella base d'asta. Finito in un'indagine perturbativa d'asta per l'irrazionale ribasso del 72% da parte dell'unico partecipante e per la mancata verifica di congruità. Rimpallato come patata bollente, siete competenti voi, no, lo siete voi, tra le procure di Milano e Brescia, ora archiviato. Tutto riguarda questo appalto, appunto fatto vinto da un'azienda. Ma non si capisce la reale proprietà della vincitrice Edicon Finance SRL, controllata da Admire Limited, con sede in Gran Bretagna, a sua volta controllata da Anisac LP, con sede nel Delaware, uno dei più impenetrabili paradisi fiscali, anche se negli Stati Uniti. Un'azienda che faceva maxi ribasso, bandi su misura, eccetera. Eccolo qui, l'appalto del tribunale, quindi il luogo della legalità di Milano per le aste, finita a una società con sede in paradiso fiscale. Ma signora, ma che fa? Metta le mani sul volante, signora, ma andiamo, per cortesia. Alessandro Milan, la scena falada di Formasiu, da Brescia. Evviva, è vero, da un po' che non ci mandate le vostre sigle anche in dialetto, dialetti proprio quelli stretti, quelli criptici, quelli che non capite, se neanche voi forse che li citate. Al 349-238-6666, il nostro numero per messaggi, WhatsApp, soprattutto i WhatsApp audio come questi. Allora, non ci sono grandi notizie dalle agenzie per quel che riguarda l'attentato avvenuto a Manchester ieri al concerto della pop star Ariana Grande. Al termine del concerto una bomba o addirittura un attentatore suicida, sta indagando la polizia britannica. 19 morti, circa 50 feriti, alcuni in gravi condizioni. C'è la BBC, Peter Bescapè, puoi mandare in onda la BBC, la BBC ovviamente in breaking news da ieri sera. Some went unaccompanied, some went with friends. They didn't necessarily have adults, family members, parents with them. They were waiting outside. In fact, some of them got caught up in the. Questo è il corrispondente della BBC che sta raccontando ovviamente di quello che è successo ieri. Si ipotizza, sicuramente si indaga per un attentato terroristico, si ipotizza addirittura l'attentatore suicida in questo concerto di Ariana Grande. Va bene, torniamo alle notizie sui giornali. Di questa notizia poco troverete sui giornali, quasi nulla, visto che è successo quasi a mezzanotte, quando era mezzanotte in Italia. dovete seguire Radio 24 per sapere tutti i dettagli. I giornali invece raccontano, beh, sicuramente quella che era l'anticipazione ieri della stampa ha trovato conferma sull'esame europeo dei conti e le raccomandazioni della Commissione europea, soprattutto sulla prima casa, reintrodurre l'IMU, reintrodurre la tassa sulla prima casa per i redditi oltre una certa soglia. Questo è quello che raccomanda la Commissione europea. Poi in Italia già il ministro Padoan ha fatto sapere no. Comunque, prima casa, fisco iniquo, lo scontro Unione Europea-Italia, Beda Romano dice tutti i dettagli, a pagina 3 del Sole 24 ore, la Commissione Europea ha confermato di aver scelto la mano leggera sul fronte dei conti statali, almeno per ora, considerando la manovra di bilancio adottata in aprile dal governo Gentiloni sufficiente in questa fase per evitare sanzioni. Ma, ecco, ci sono... Non vi sono dati analitici che giustifichino il passaggio alla fase successiva della procedura, però ci sono quattro raccomandazioni presentate e che devono guidare la politica economica del governo nei prossimi 12-18 mesi. Tra queste, la Commissione europea ha consigliato nuovamente di rivedere la decisione nel 2015 del governo Renzi di abolire tout court la tassa sulla prima casa. Ha suggerito di reintrodurla almeno per i redditi più elevati. Subito Padoan ha risposto: le riforme fiscali vanno viste nel loro insieme. Direi che cambiare idea su una tassa appena cambiata da pochi mesi non è una buona idea. Così la risposta del ministro Padoan. Comunque, staremo a vedere tutti i giornali. Bruxelles chiede la tassa sulla casa al no di Padoan, nel titolo per esempio del Corriere della Sera. A proposito di sfide dell'economia, parla con Marco Zatterin sulla Stampa, pagina 5, uno dei commissari all'Italia, si tratta di Enrico Laghi. 200 milioni di costi in meno, ecco il nostro piano per l'Italia, parla il commissario. Cosa abbiamo trovato all'arrivo il 2 maggio? La situazione era complessa. Abbiamo cominciato subito il lavoro con un esame approfondito di tutti i contratti in essere. Gubitosi sta studiando i contratti passivi per capire dove sia possibile incidere. Abbiamo cominciato dal carburante e dal leasing per gli apparecchi e poi da questa cifra, Laghi, sono almeno 100 milioni che pensiamo di risparmiare per i derivati. Tutto insieme al netto del dossier per personale, dobbiamo puntare a minori esborsi tra i 150 e i 200 milioni, un obiettivo che ci dobbiamo porre e riteniamo realizzabile. Dunque punta il commissario Enrico Laghi a dire 200 milioni di costi in meno, ecco il piano per l'Alitalia. Taglia il personale di terra, meglio evitare lo spezzatino, sia un nuovo azionista e a soci industriali, non escludo Trenitalia. Questo Enrico Laghi. Dall'economia alla politica, il titolo di Repubblica è molto chiaro. Nazareno bis, con un bel puntone di domanda. Sapete che la proposta che tiene banco è la proposta di una legge elettorale proporzionale fatta da Silvio Berlusconi a Renzi, in cambio si voti a fine settembre-ottobre. Tommaso Ciriaco e Carmelo Lopapa racconta sotto questo titolo Nazareno bis, cioè quel patto siglato tra Berlusconi e Renzi il 18 gennaio 2004, poi saltato. Ebbene, Repubblica dice: l'incontro della svolta c'è stato poche ore fa. Gianni Letta e Luca Lotti si ritrovano faccia a faccia per la terza volta nell'ultima settimana nell'ufficio romano del braccio destro berlusconiano. E lì ha messo nero su bianco una bozza d'accordo, il bis del Nazareno in salsa elettorale. Cosa prevede questo accordo? Secondo Repubblica, ben informata, prevede tre condizioni irrinunciabili poste da Renzi. Primo, la Lega deve siglare e rendere pubblico assieme a Forza Italia l'impegno formale a sostenere la riforma elettorale tedesca. Secondo, il testo va approvato entro metà luglio per garantire elezioni il 24 settembre. Terzo, la soglia di sbarramento deve restare al 5%. Ora mostrino le carte. Questo avrebbe detto Renzi. Gianni Letta le sue le ha già mostrate. Poi ha rassicurato il cavaliere Silvio. Stavolta ci siamo. Renzi mi ha fatto stracciare e riscrivere il patto per tre volte, ma questa è quella giusta. È il nuovo patto del Nazareno? Repubblica Ripeto, in questo articolo di pagina 14 e 15 di Tommaso Ciriaco e Carmelo Lo Papa racconta in maniera dettagliata di un vero e proprio patto siglato dopo tre incontri tra Gianni Letta e Luca Lotti per questa legge elettorale proporzionale e si voti a ottobre, o meglio fine settembre, ottobre. Meno male che sa tutto Mauro Meazza, che ci può dare lumi su questo patto del Nazareno bis, sì o no? Buongiorno Mauro. Buongiorno. A questa la rispondo dopo, ti dispiace? Ah, ok. Beh, sì. Sì, fammi invece delle domande sulla manovrina. Che allora, la manovrina, la web tax, per esempio. Mi appassiona decisamente di più, come apprenderai oggi da Sole 24 Ore, perché c'è stato un accordo in commissione, quindi queste correzioni alla manovrina, sai che la manovrina è già efficace per la parte che è scritta nel decreto legge, ma ora si stanno facendo le correzioni in Parlamento prima che diventi definitivamente convertita in legge. E allora a pagina 2 apprenderai che appunto c'è stato un accordo su una web tax, per quanto insomma è una web tax sperimentale, e poi c'è l'accelerazione dei rimborsi IVA. Si promette di pagare più rapidamente i rimborsi IVA, e ci sono anche le correzioni alla voluntary disclosure bis, ma vabbè, tutti i particolari in pagina 2. Invece ti vorrei invitare a meditare su quanto scriviamo, riportiamo a pagina 5, anticipando un rapporto che poi verrà presentato oggi, sulla, come dire, disaffezione crescente per l'università e anche sui dati bassi dei laureati italiani. Molto interessante, il rapporto 3L. Sì, si scrive solo il 61% dei diplomati, questo 61% è 17 punti sotto quello che era 25 anni fa, quindi effettivamente è vero che magari nel frattempo i diplomati sono aumentati, ma siamo al di sotto decisamente delle medie di altri paesi. Però tu Mauro mi confermi che si parla anche di voluntari sul Sole? Si parla sicuramente anche di voluntari, abbiamo un angelino a proposito. Sì, voluntari di Crashur, che cavolo ordini, mannaggia la puttana, spiegatevi bene. Guarda, mi mancava moltissimo Angelino, sai, l'avevo chiesto anche a Peter nei giorni precedenti, lui, come dire, non voleva darmi questa soddisfazione. Va bene, sei pronto per l'ape social? No, non ti riguarda, perché l'ape, l'anticipo pensionistico, per quello che è stato firmato ieri, trovi tutto su norme e tributi che leggerai religiosamente. Questa app social riguarda chi è disoccupato, ad esempio, e ha una età decisamente più avanzata della tua, che sei un ragazzino. Però, come apprenderai da norme e tributi, intanto sono in marcia, non troppo velocemente pare, anche i decreti sulle altre ape o api, non so da questo punto se bisogna dirlo al plurale o al singolare, chiederemo alla Crusca. Naturalmente è martedì. È condominio, signori. È condominio, e allora una informazione molto rilevante: il contratto con il portiere, non il portiere, quello naturalmente di calcio, ma portiere, cioè colui che si occupa di custodire lo stabile. E siccome ti sei appassionato alla tassa sulla casa, sì, con naturalmente del viatico della Commissione Europea, ci mancherebbe, ti invito a leggere religiosamente, come sempre devi fare, norme e tributi, perché li spieghiamo anche quanto ha dato l'IMU sulle seconde case, immobili non abitativi. 15,9 miliardi. Mica bruscolini, dalle prime case di lusso, che sono le uniche rimaste a pagarlo, mi pare che siamo sotto gli 80 milioni. E con questo, caro Alessandro, cosa volevo dire? Non lo so. Traffico! Alessandro Milan, alzamien dell'informazione, da Modena. Benissimo, alle 7:48 minuti. Allora, per concludere con la politica, l'apertura del Fatto Quotidiano ci riporta la questione Etruria, Boschi, De Bortoli. Ricordate l'uscita del libro di Ferruccio De Bortoli, in cui si parlava di interessamenti dell'allora ministro Boschi sulla questione Etruria, dove il padre era vicepresidente. La notizia è questa: Boschi non querela De Bortoli. All'interno la notizia è ancora più aggressiva, se volete. Boschi non osa querelare De Bortoli, titolo di pagina 5 del Fatto Quotidiano. Maria Elena Boschi, raccontano Stefano Feltri e Carlo Tecce, aveva promesso di ricorrere alle vie legali per difendere la propria reputazione, ma dopo due settimane della querela contro Ferruccio De Bortoli non c'è traccia. E secondo quanto risulta al fatto, il gruppo di legali che segue il sottosegretario a Palazzo Chigi sta ancora approfondendo la questione e non ha depositato alcun atto. Va bene, lasciamo la politica. No, beh, sulla politica c'è anche questo interessante. Il Giornale è andato a fare un po' le pulci con Jacopo Granzotto, a pagina 7, sulle assenze del senatore a vita Renzo Piano. Resta lo stipendio da 18.000 euro che lui devolve a 6 architetti, questo detto per correttezza, ma Renzo Piano è un fantasma a Palazzo Madama, ha saltato 15.700 sessioni su 15.708 praticamente, no? No, ha fatto 8 votazioni, questo è nel titolo, in realtà ha fatto 8, risulta presente a 8 votazioni su 15.734, sempre giustificate, eh? In missione a vita. Ovviamente lavora, no? È in giro per il mondo, nei suoi piani di rammendo, di ricucitura cittadina, nei suoi progetti da archistar, eccetera, però ecco, il Giornale fa notare che 18.000 euro... 8 votazioni, ha preso parte a 8 votazioni su 15.734, un po' pochino, un po' pochino, però insomma non vorrei riaprire qui la questione della vicenda dei senatori a vita e della loro utilità o meno. Oggi 23 maggio è l'anniversario della strage di Capaci, tra l'altro io lo noto tutti gli anni e lo voglio citare tutti gli anni, 23 maggio, intervistati tutti, a proposito, ovviamente, tutti che rilasciano dichiarazioni, la sorella di Falcone, i magistrati, coloro che hanno lavorato con lui, eccetera. L'unico che non viene mai intervistato, io l'ho intervistato vari anni, eccetera, ricordo sempre lui, è Giuseppe Costanza, cioè l'autista di Giovanni Falcone. Negli ultimi 8 anni di vita, l'ombra di Giovanni Falcone. Era talmente l'ombra che era anche sulla macchina di Capaci saltata in aria il 23 maggio del 92. Era lì. Quindi più di lui chi potrebbe raccontare chi era Giovanni Falcone e anche gli ultimi istanti di vita di Falcone, perché lui poi non ricorda nulla dell'attentato. Eppure vengono intervistati tutti tranne Giuseppe Costanza, è il mistero dei misteri. Lui infatti ha scritto un libro di recente, Stato di abbandono, nel quale ha raccontato come essere sopravvissuto è stata la sua condanna, perché è stato totalmente abbandonato da tutti e dallo Stato. Comunque vi segnalo tra i tanti articoli di oggi, pagina 11 di Repubblica, Attilio Bolzoni: nel 1988 il magistrato Falcone fu bocciato per la carica di consigliere istruttore a Palermo. Eccolo qui il tradimento del CSM. Da qui parte Attilio Bolzoni per raccontare anche lo sfogo allora di Falcone. Così, quando è stato bocciato dal Consiglio Superiore della Magistratura come consigliere istruttore del Tribunale di Palermo, il Consiglio Superiore gli preferì al suo posto un anziano giudice con 16 anni di carriera in più alle spalle, Falcone commentò così: «Mi hanno consegnato a Cosa Nostra». E beh, si descrive anche una storia da un certo punto di vista ben diversa, cioè di come Falcone ovviamente non sia stato certo appoggiato dai propri colleghi. Vi segnalo questo articolo di Attilio Bolzoni su Repubblica, pagina 11, racconta qualche spaccato, insomma, di Falcone sconosciuto ai più. Invece l'INPS, con una follia burocratica così definita da Libero, ha tolto la pensione da reduce di guerra all'alpino 95enne Serafino Preda. Implacabile, l'INPS ha detto: non ha più diritto a questi 8,80 euro al mese. Togliere! Via! Alpino Peter Bescapè, che ne pensi? Serafino Preda, che vive dal 42 con 2 schegge di metallo nel corpo, quindi reduce di guerra, ricordo triste di guerra, l'INPS gli ha revocato il mini assegno. Era ovviamente un'integrazione della pensione. 8,80 euro al mese. Via! Quando il maglio della burocrazia individua i parassiti dello Stato, li colpisce duramente. È stato individuato il parassita Serafino Preda, 95 anni, alpino, reduce di guerra, che rubava 8,80 euro al mese. ovviamente sto usando un'ironia, no? Perché qualcuno magari poi crede che stia dicendo delle cose, sono volutamente ironico e sarcastico. Questa articolo di Giuseppe Spatola racconta: via la pensione da 8 euro all'alpino 95enne. Ci sono ovviamente anche tanti articoli relativi a Haydn, che non ce l'ha fatta, è morto dopo 5 giorni di coma. Tutti i giornali ovviamente raccontano la morte del pilota americano che è stato travolto mentre andava in bicicletta. Ma siamo alla carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali, eccoci qua, siamo una pagina della verità, una pagina sui tacchi alti, l'arma di potere femminile, che però furono inventati per gli uomini, perché gli attori greci furono i primi a indossarli. E causano problemi, lordosi, cefalee, ma in certi casi, scrive una rivista scientifica, stimolando i muscoli pelvici potrebbero favorire anche l'orgasmo. Comunque, insomma, una pagina dedicata ai tacchi alti. Ma chi se ne frega!